lunedì scorso il governo catalano, presieduto da Carles Puigdemont, aveva risposto alla richiesta del governo spagnolo di Mariano Rajoy con una risposta molto vaga. Cosa era successo? La settimana scorsa il presidente Puigdemont, davanti al Parlamento catalano, aveva in qualche modo dichiarato la Repubblica Indipendente Catalana basandosi sui risultati del referendum dell'1 ottobre, ma poi ne aveva sospeso gli effetti, insomma una specie di manovra un po' democristiana per dire e non dire, per lasciare aperta la possibilità al dialogo. Il governo Rajoy non se l'è bevuta, diciamo così, e quindi ha fatto una prima richiesta formale, la cui scadenza era lunedì scorso, e a questa prima richiesta un po' surreale, perché il governo Rajoy chiedeva al governo Puigdemont di chiarire che cos'è che aveva dichiarato, se aveva o no dichiarato l'indipendenza, cosa che tutti hanno visto che non era stata dichiarata nessuna indipendenza formalmente, ma insomma fece questa richiesta. Lunedì Puigdemont inviò come risposta una lettera un pochino ambigua, ma che evidentemente cercava di trovare il modo di dialogare. Ma poi quello che è successo è che lunedì sera c'è stato un escalation, perché sono stati incarcerati con prigione preventiva i due presidenti delle associazioni indipendentiste più importanti, con un'accusa peraltro abbastanza grave e anche un po' obsoleta come quella di sedizione, e questo era stato interpretato da tutto il mondo indipendentista un po' come una specie di attacco, una specie di dichiarazione di guerra, davanti invece alle dichiarazioni, diciamo così, di ricerca di dialogo che aveva fatto il governo di Puigdemont. E quindi da lunedì è chiaro che la tensione è cresciuta moltissimo. C'era una seconda richiesta del governo entro stamattina alle 10 di tornare al cammino costituzionale, anche se appunto non era ben chiaro sulla base di che, perché in realtà non è stato dichiarato formalmente ombra di nulla, ma stamattina Puigdemont, proprio all'ultimo minuto prima delle 10, aveva inviato una seconda lettera in cui sostanzialmente diceva che non aveva dichiarato nessuna indipendenza, ma che sì, l'avrebbe fatto se il governo di Mariano Rajoy avesse, diciamo così, schiacciato il bottone nucleare, cioè l'applicazione di questo articolo ormai famoso 155 della Costituzione spagnola, che serve per commissariare le comunità autonome che non seguono appunto gli ordini costituzionali, ma che è un articolo che non è mai stato applicato finora, e quindi diciamo è un cammino un po' inesplorato, molto pericoloso anche per il governo centrale, perché ovviamente questo non rasserena l'ambiente. Ecco, a proposito di questo articolo che non è mai stato applicato e non stabilisce neanche delle linee d'azione chiare in realtà, però l'unica cosa che si capisce chiaramente è che Rajoy avrà bisogno della maggioranza assoluta al Senato. È scontato che lui ottenga questa maggioranza assoluta? Dunque, per la precisione, quello che prevede l'articolo 155 è che il governo appunto deve fare queste richieste formali che ha già fatto, a cui la comunità non deve rispondere nella maniera considerata opportuna, cosa che è già avvenuta, e quindi a quel punto il governo deve fare una proposta al Senato dettagliata di quali sono le misure concrete che vuole assumere, e il Senato a quel punto deve dare l'autorizzazione. Dopo questa autorizzazione in realtà il governo non è obbligato ad applicare questo 155, ma insomma è molto probabile che lo faccia. Otterrà il sì? Certamente sì, perché al Senato, che ricordiamo in Spagna non c'è un bicameralismo perfetto come in Italia, il Senato non ha praticamente nessuna funzione eccetto questa, e nel Senato spagnolo sì, il PP ha la maggioranza assoluta, e non solo, il Partito Socialista e anche Ciudadanos hanno già detto che appoggeranno questa misura del governo, che infatti è andato negoziando durante gli scorsi giorni. Allargando invece un pochino lo sguardo anche in tutto il campo europeo, diciamo, Puigdemont finora non ha trovato nessun appoggio da parte della comunità europea o riconoscimento comunque internazionale. Quanto questo può incidere sulla sua posizione? Inciderà moltissimo, perché è un tema molto scivoloso, ma insomma la dichiarazione di uno Stato o la richiesta di indipendenza di uno Stato dipende in maniera assolutamente cruciale dal fatto che gli altri lo riconoscano. Però c'è anche da dire che il governo Puigdemont, il governo catalano, è riuscito a portare il tema nell'agenda internazionale, tant'è così che in realtà si sa che ci sono dei contatti informali e assolutamente smentiti dai portavoce ufficiali, ma che sono certi, sia con il governo Rajoy che con il governo di Puigdemont, da parte di molti esponenti dell'Unione Europea di altissimo livello e anche da altri capi di Stato.